Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Buon pomeriggio, benvenuti a Fermata Provvisoria, al contributo del martedì pomeriggio di Fuscico Factory. Io sono Carlotta e oggi ai microfoni di Radio Città Fuscico abbiamo i Jennifer Gentle. I Jennifer Gentle sono un gruppo rock psichedelico nato nel 1999 a Padova, attivo soprattutto fuori dall'Italia. Primo gruppo europeo a ricevere un contratto dalla Sub Pop di Seattle, celebre per aver lanciato i Nirvana. Dopo 10 anni di attesa, ha visto finalmente la luce l'attesissimo album omonimo dei Jennifer Gentle. Di questo album se ne è parlato anticipatamente qualche settimana fa durante il disco della settimana di Mauro ed Erika, ma ecco che oggi abbiamo ai microfoni della nostra radio proprio il frontman della band che potrà spiegarci in prima persona il loro album. Ma prima gustatevi Just Because. Once in my life I was born and just because Siamo al telefono con Marco Fasolo, fondatore e frontman dei Jennifer Gentle. Dopo quasi 10 anni di attesa, ha visto finalmente la luce l'attesissimo album omonimo dei Jennifer Gentle, uscito il 4 ottobre per la Tempesta Dischi, anticipato dal primo singolo estratto, Guilty. Ciao Marco, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, ciao. Allora Marco, partiamo proprio dal titolo del vostro album, che si chiama come voi, Jennifer Gentle. Sì. Ecco, tendenzialmente gli album omonimi sono gli album, i debut album, no? Gli album di debutto di una band o di un cantante. Voi invece avete scelto questo nome dopo 20 anni di carriera. Come mai? È forse un modo per dire... eccoci qua, questi siamo noi nella nostra veste più vera e autentica? Guarda, questo non credo sia esattamente questo il motivo. Poi magari a livello inconscio ci sono delle cose che uno magari dichiara senza appunto esserne coscientemente padrone. Però non credo. Credo più che altro che il problema fosse dal momento che ho completato il disco, non mi fosse arrivato un'idea riguardo il titolo. O meglio, me ne fossero arrivate anche troppe, se vuoi, ma nessuna funzionasse, nessuna riusciva davvero, secondo me, a dare l'idea di cosa uno stesse per ascoltare. Mentre che ne so, per esempio, Fanny Crichton Lane, appena finito il disco, ho pensato subito a questo sentiero con delle creature bizzarre. Ed era un po', secondo me, l'idea del disco, forse anche a monte, per assurdo. In questo caso, invece, il nome non è arrivato, il nome giusto non è arrivato. E quindi, dopo un po' di tentativi, appunto, non azzeccati, ho detto, ma il problema è che non c'è una parola o una frase che riescano a descrivere il disco, a dare un'idea di cosa uno stia per ascoltare al momento in cui mette sul CD il vinile o quello che è. E quindi ho preferito non dare un titolo a questo disco, o meglio, fare in modo che il titolo fosse percepito come il nome della band, perché penso che il progetto in sé sia un contenitore di varie diverse idee. Mi è sembrato che il nome del progetto racchiudesse e descrivesse meglio di qualunque altro titolo questo disco nello specifico. Qual è stata la scintilla che ti ha portato a scrivere qualcosa di nuovo o a comporre qualcosa di nuovo? Guarda, la scintilla che mi fa venire voglia di scrivere è sempre la stessa, ossia la voglia di scrivere per scrivere proprio. Tra l'altro, nonostante i svariati anni di assenza dai palchi o comunque dalla discografia in genere, non hanno nulla a che vedere con l'assenza l'assenza di nuove idee o di nuove canzoni. In realtà da fine 2009, finito il tour di Midnight Room, tornato dall'America e tornato da varie altre piccole tournée, magari Europa, Italia, così, ho subito ricominciato a scrivere, che è quello che faccio sempre quando finisco un disco, diciamo. Riprendo subito a scrivere, e anche per questo non ci sono state eccezioni, per cui a fine 2009 io ho già iniziato a scrivere, solo che poi anziché metterci quell'anno o due, perché in realtà in quello stesso periodo ho avuto voglia di approfondire tutta la storia, tutta la questione della produzione, per cui ho voluto deliberatamente chiudermi in studio, anzi in vari studi, a fare diversi lavori con diversi progetti e andare a dal modificare le apparecchiature, al lavorare sugli arrangiamenti, a capire quali microfoni mi dessero quel tipo di sapore durante le riprese, piuttosto che tipo di riverberi, che tipo di ambienti, che tipo di stanze, che tipo di strumenti. Insomma, ho fatto tutto un lavoro di ricerca in breve. Ho voluto approfondire e fare questo lavoro di ricerca in questi anni. Chiaramente quando ti concentri su un aspetto ne tralasci un po' altro. Ho voluto non fare troppi concerti perché stavo scrivendo e stavo approfondendo il lavoro della produzione. Questo è il vero motivo. Questo è ciò che ho fatto in questi anni. Quindi da Verdena, Bud Spencer, l'Architects Arena, gli Edna Village, insomma, ho cercato di concentrarmi su questi lavori e sulla scrittura. Poi alla fine di tutti questi anni, con tutta l'esperienza dei lavori in studio, con tutte le canzoni accumulate, che erano 34 se non ricordo male, ho cominciato a fare un lavoro di scrematura, di arrangiamento, di vera e propria preproduzione, cioè ho cominciato a realizzare i provini del disco e a selezionare di quelle 34 quel gruppo di canzoni che insieme stavano particolarmente bene, raccontavano una storia o comunque davano un ascolto fluido dall'inizio alla fine. Fatto questo, sono entrato in studio nel 2016 e per 3 anni ho lavorato il disco. Appunto, l'ho intervallato con un paio di cose, un paio di produzioni. Principalmente ho fatto un mese a Londra con un musicista di Istanbul, abbiamo fatto un disco alto reg con Leon Watson e producevamo io e Liam a 4 mani, quindi è stata una bella esperienza a Londra. Così. E poi ho fatto Hit My Village, poi ho fatto Spencer, poi ho prodotto Eddie, che è un musicista catanese che vive a Roma. Insomma, ho fatto parecchi lavori, ma comunque in questi 3 anni mi sono concentrato sul mio disco. Cosa è cambiato invece nel modo di fare musica dal 99 ad oggi? Oddio, di fare musica direi nulla, perché comunque quello che mi muove, che mi spinge a scrivere, l'immaginario al quale attingo, eccetera eccetera, rimane più o meno sempre lo stesso, e cioè la mia fantasia, i miei sogni, che ne so, i vari film che ho visto in una vita, i vari dischi che ho ascoltato in una vita, comunque tutto si mischia nel cervello in una specie di enorme pentolone che ribolle costantemente. Non credo che sia cambiato il mio modo di scrivere. Oddio, magari il modo di scrivere è cambiato, ma il modo, il perché io scrivo e ciò a cui io aspiro, no. Poi chiaramente sono passati tanti anni, uno fa esperienza, approfondisce certe cose, si innamora di certe nuove intuizioni, quindi chiaramente c'è un'evoluzione ovviamente, però non credo che sia cambiato il mio modo di vedere la cosa. Ma possiamo dire che tutto è partito grazie ai Pink Floyd? No, non è giusto dire così, per il semplice fatto che i miei primi ascolti, quelli veramente rivelatori, che mi hanno proprio aperto quell'enorme cancello verso questo territorio inesplorato che è la musica, sono state 2 cassette che mio papà mi ha regalato quando ero bambino. Uno era una raccolta dei Beatles, che è quella 62-66, quindi con i primi, con i successi dei primi dischi, e poi una raccolta di Mozart. Quindi io, che ne so, avevo 8 anni, non mi ricordo esattamente l'età, ma super giù 8 anni, ascoltavo tanto i Beatles quanto Mozart, e mi rendevo conto, ascoltando Mozart, che c'era già il pop a metà 700, e ascoltando i Beatles mi accorgevo che dentro i Beatles c'era Mozart, e quindi io ho cominciato a capire che la musica era una cosa, intanto, che viaggia nel tempo clamorosamente, che le cose buone non invecchiano, altra cosa abbastanza clamorosa, e che non c'è un vero genere, c'è magari un contesto storico, un contesto sociale, c'è una certa ambientazione a livello sociale, ma non c'è una vera legge, un vero genere, un vero contenitore in questo senso. Quindi ho capito che la musica era una materia libera in qualche modo, e quando poi, solo poi, sono arrivati Pink Floyd, soprattutto quelli di Barrett, ho capito che davvero la musica era una cosa multiforme, dove potevi trovare, soprattutto nella forma canzone, chiamiamola nella canzone pop di 3 minuti, poteva essere, come appunto si trova nei Pink Floyd, l'avanguardia, la sperimentazione, il pop, la classica, qualunque cosa, il canto sacro, i canti gregoriani, che ne so, Poteva trovarci di tutto. E il bello, poi sono arrivati i Queen, per cui anche certo, lì, ciao, altro che classica, musica classica, con l'hard rock, con l'opera, con il jazz, con l'avanguardia anche lì, con i nastri tagliati, montati, con tutta una serie di trucchi da studio, anche se di 40 anni fa, ma insomma ci davano dentro. E quindi tutto ciò mi ha scaturito una curiosità, una voglia di mischiare le cose, di provare a raccontare cose nuove, cose mie, in una forma personale, quindi più che nuove, perché nuovo non vuol dire assolutamente niente. Quindi comunque sempre sperimentazione. Beh, sperimentazione in quanto ricerca, non in quanto musica ostica per 3 amici con gli occhiali con le lenti spesse, non è quello che mi interessa. Mi piace l'idea di fare qualcosa di qualità, di personale, di originale che arriva. Chiaramente è un'utopia per certi aspetti, però la storia della musica ci insegna che queste cose sono storicamente successe. Che oggi una band come, non dico i Beatles, ma una band come i Pink Floyd sarebbe probabilmente snobbata, oppure no, però magari riempie, anziché gli stadi, magari riempie, non so, l'estragon. Però arrivare a certi numeri con una complessità, una ricchezza, una personalità, un'eterogeneità, una ricerca del genere, non è proprio ovvio in questi anni, in questo periodo storico, dove più l'aggregazione, più il concetto di trovarsi la pappa pronta, che cioè, anche solo ingurgitare un boccone è già troppo sforzo, capito? Invece secondo me la cosa che deve fare il creativo è incuriosire. Tu perché vai a vedere una mostra se non sei incuriosita ad andare a vederla? A meno che non sia una cosa sociale da fare. Ok, sì. Quindi che poi una cosa sia interessante da un punto di vista sociale, che crei aggregazione tra persone, è sacrosanto. Però sarebbe bello che quello venisse dopo, no? Che la prima pinta venisse dalla curiosità. Poi tu mi dici, magari adesso il pubblico è meno curioso, sì, è vero, ma anche i creativi sono meno incuriosenti, quindi è un cane che si morde la coda. Capisco. Dunque, parliamo adesso invece del singolo estratto che ha anticipato l'album. Il singolo si chiama Guilty. Parlaci un po' tu del singolo e anche, se vuoi, del videoclip, visto che l'hai girato tu. Allora, la canzone è nata in corsa, cioè il disco era praticamente finito, quando alle mie orecchie serviva, era chiaro che servisse un brano più fresco, più fruibile, più divertente, ma proprio in primis anche per me. Avevo voglia di registrare un brano che mi divertisse, che fosse, tra virgolette, leggero, anche se è stato forse il più difficile da registrare, perché anche se non sembra, ma registrare certe cose suonandole innanzitutto e registrandole con 8 tracce su nastro, dove veramente hai poco margine di, anzi non hai assolutamente margine di post produzione o di montaggio o di trucchi, diciamo, quindi quello che senti è suonato, e ci sono delle parti dove si aprono questi riverberi, la batteria diventa ultra ambientale. In realtà lì in tempo reale, finché suonavo, venivano aperti dei microfoni che prendevano la batteria da altri punti della sala. Ah. Quindi ecco, un lavoro veramente complesso, credo di averci messo 4 giorni solo per registrare la batteria. Quindi è un vero e proprio sound design, però fatto con 8 tracce su nastro, anziché con 14 milioni di canali su Pro Tools. Quindi ecco, non è stato facile. Ed credo sia stata assolutamente la più complessa insieme a Swineherd da realizzare. Cioè è un pezzo divertente con il quale sentivo che stavo giocando. E avevo bisogno di quello. E l'ho fatto, basta. L'ho scritto in un pomeriggio col brano. Quindi l'ho scritto in un pomeriggio e poi ci ho messo un mese a registrarlo, ma questo fa parte del gioco. Depistare chi non ci conosce e divertire chi ci conosce, cioè chi ci conosce sapeva che la voce cantava, secondo me era chiaro che la canto io, si sente con la mia voce, però magari chi non ci conosce o non ci conosce abbastanza bene, mi piaceva l'idea che potesse pensare che fosse cantata da qualcun altro, o quantomeno che si chiedessero: ma chi sono questi con una tipa di colore che canta e questi quattro cesti che suonano? Ma è nato come gioco, voleva essere una cosa divertente. Abbiamo girato il video in un paio d'ore al Circolo Nadir di Padova, che è un locale che in qualche modo catalizza un po' tutta una certa fauna padovana incuriosita alla musica un pochino più di ricerca, appunto. E quindi, infatti, poi, a parte Solacche o la Duna, anche gli altri musicisti vengono da Orange Car Crash, vengono dal Fulcro, insomma, band di un certo tipo di Padova, insomma, band che fa ricerca, molto giovani che hanno voglia di sporcarsi le mani, ecco, a differenza di tanti altri giovani che non si sporcano le mani. Quindi, boh, mi è sembrato interessante mettere tutti questi ingredienti all'interno di un video che poi non è altro che un divertimento, uno scherzo, un gioco. E poi la scelta di girarlo con una telecamera in bianco e nero di quel tipo, quasi a far sembrare che fossero immagini di repertorio di qualche vecchia band dagli archivi della BBC o della Rai. Credo sia riuscito, in tutta la sua povertà di mezzi, nella sua sceneggiatura che non esiste. È vero che nel videoclip compare anche tuo figlio? Sì, mio figlio diciamo fa il playback su la solo di chitarra. Tra l'altro molta gente che conosco anche molto bene, che conoscono anche mio figlio, mi hanno detto: ma ascolta, ma è vero che la solo l'ha suonato tuo figlio? No, non l'ha suonato, l'ho suonato io, è un assolo molto sghembo e quindi ci sta che un bambino di 8 anni e mezzo possa aver suonato, perché non è il classico assolo, diciamo, da manuale con le note, con le cose, è un più rumoristico, no? Mm-hmm. Quindi ci poteva stare. Però no, anche qui ho suonato io e poi lui lo interpreta, diciamo, se l'è divertito mimandolo. È già partito il vostro tour di presentazione dell'album, e dove è possibile ascoltarvi live prossimamente? Il 15 al Monk di Roma, all'interno del Rome Psych Fest. Il giorno dopo il 16 al Spazio Astra di Foligno. Il 23 suoniamo a Bari, all'Officina degli Esordi. Il 28 al Serraglio di Milano. E poi si va a fine dicembre con 3 date, adesso verranno comunicate, in Sicilia. E una data il 27 al Mood di Cosenza. Allora, grazie Marco, l'intervista è finita. E in bocca al lupo per, appunto, tour, progetti futuri e qualsiasi altro progetto secondario, certo, diciamo. Grazie mille. E torna a trovarci. Sì, c'è sempre roba che bolle in pentola. Esatto, mai fermarsi. Mai, mai, mai. Va bene, grazie. Un abbraccio, ci vediamo. Ciao.